Sicuramente è una narrazione, diciamo, che esiste da pochissimi anni. Il motivo, diciamo, sicuramente ci sono vari aspetti. Senza dubbio la ricerca del consenso, soprattutto negli ultimi anni, come è stato dimostrato, diciamo, da anche molti studi sociologici che partono dagli Stati Uniti, in una epoca di crisi della rappresentanza politica la ricerca del consenso molto spesso avviene attraverso la paura, in particolare attraverso la paura della criminalità di strada. Quindi questa narrazione, diciamo, del decoro e del suo alter ego negativo, il degrado, è una narrazione che serve un po', diciamo, anche a dividere le persone fra persone per bene e persone per male. Molto spesso si tratta di una divisione veramente, diciamo, strumentale. In Italia, come dire, nell'ultimo anno abbiamo visto forse quella che è la punta dell'iceberg, che è la legge Minniti con la questione del DASPO urbano, ma ci sono molti altri dispositivi parlando di questa materia. Puoi farci qualche esempio? C'è la questione del DASPO urbano, ci sono anche altre questioni, diciamo, un po' più laterali, che però ritroviamo anche nella legge Minniti. Parlo dei gruppi di volontariato che si raccolgono, diciamo, in questi cleaning day, no? Giornate della pulizia. Alcuni sono molto conosciuti, ci sono ormai in quasi tutte le città, e addirittura la legge Minniti prevede che il comitato metropolitano, che sono questi nuovi comitati che fanno parte delle nuove reti integrate sulla sicurezza, abbia, diciamo, oltre al governo locale, la polizia locale e di Stato, prevede anche la collaborazione con questi gruppi di volontariato, che sicuramente sono forse molto in buona fede, ma molto spesso le loro azioni di pulizia sono azioni che vanno a cancellare alcune zone dove magari il manifesto o le scritte sui muri hanno un valore anche molto simbolico, storicamente simbolico e sicuramente anche politico, e quindi si va a creare questa contrapposizione fra chi vuole la città pulita e chi invece vive lo spazio pubblico in una maniera che è scarsamente tollerata. Penso anche agli attacchi che sono stati fatti alla socialità. C'è poi anche la questione della marginalità sociale e della povertà, che è appunto annoverata tra le cose indecorose. È curioso vedere come nel discorso pubblico spesso c'è l'assenza di analisi sulle cause che provocano condizioni e comportamenti considerati indecorosi. Esatto, perché molto spesso limitarsi a dire che magari una zona dove ci sono senza fissa dimora, dove si chiede l'elemosina, è una zona degradata, quindi oggettificando anche queste soggettività, no? Che non sono più delle persone, ma diventano semplicemente degli elementi di sporcizia, e si affronta questo tipo di fenomeni non andando alla radice, penso alla radice appunto socio-economica di questo tipo di problematiche, di chi è costretto a vivere in strada. Penso anche, per esempio, al fatto che ci si limiti a allontanare, per esempio, altre soggettività come le prostitute o il piccolo spacciatore. Si va a colpire questi, diciamo, che sono gli ultimi anelli, no? di un sistema di sfruttamento, senza un impianto di indagini che vada fino in fondo, ma semplicemente respingendoli dai centri urbani, o meglio, come proprio dice la legge Minniti, da luoghi interessati da flussi economici e turistici. Questo è anche un po' il primo passo per uno scatto che si registra in alcune città, dove non ci sono solo misure ad hoc, diciamo così, per le persone, ma ci sono anche processi di trasformazione urbana. Sì, esatto, perché poi, diciamo, quello che sicuramente si va a registrare è che quando si tutelano le zone interessate da questi flussi economici, da questo tipo di soggettività, è chiaro che quello che poi si ottiene è delle zone private di conflitto, private di caos, di rumore, di sporcizia, di scritte sui muri, affinché quelle stesse zone abbiano un valore di investimento immobiliare che sia più favorevole, e quindi si tratta anche veramente di ripulire le zone della socialità da tutto ciò che potrebbe turbare eventuali investitori. Ecco, una cosa che mi ha colpito del tuo libro: tu hai fatto anche un'analisi mediologica del perbenismo in rete. E cosa è emerso? Quello che emerge è che molto spesso dietro a questi blog o gruppi volontari che fanno, diciamo, questa narrazione del degrado nelle nostre città, nella maggior parte dei casi si utilizzano dei termini che sono termini che incutono timore, incutono paura. Per esempio, molto spesso si usa la parola orrore, disgusto, per riferirsi semplicemente a magari delle zone in cui è possibile trovare dei venditori abusivi o comunque fenomeni, diciamo, che non sono legali, ma sicuramente non incutono così tanta paura come invece si cerca di fare. E questo, diciamo, è sempre la solita, mi verrebbe da dire, tecnica dell'hate speech, del discorso appunto sulla paura, che si sa genera tanti consensi, soprattutto quando si tratta di interessi politici.